Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat. Traduzione di Anna Nadotti e Giovanna Iorio Bates. Quando Daniel entrò in canonica, fuori era buio e in casa non c'erano luci. Non era tardi, ma la moglie del pastore lesinava su riscaldamento e illuminazione e la tromba delle scale vittoriane era una colonna ascendente di ombra gelida. Daniel, che conosceva il posto, avanzò a passi felpati tra l'attaccapanni e la cassapanca nera di quercia, aggirando gli ostacoli. Sfuggì all'incognita di isole consunte e logore nelle passatoie turche e si diresse verso lo studio del pastore. S'arrampicò sulla scaletta della libreria e passò in rassegna gli scaffali. L'opera completa di Shakespeare, in pelle goffrata in oro e nero, era sul ripiano più alto. L'anta di vetro era chiusa a chiave. Daniel passò in rassegna tutte le ante, niente chiave. Ridiscese pesantemente, rovistò sulla superficie della scrivania nell'incerto cerchio di luce, aprì una scatola d'argento che odorava di tabacco, uno scrigno di legno pieno di graffe e di etichette. Come un lavoro tonturno, cominciò a incorporare anche nei cassetti, capovolgendo piccoli nascondigli di spiccioli, elastici, vecchie croci di ramoscelli d'ulivo intrecciati. In un cassetto dentro un cassetto, azionato da una molla nascosta, trovò quello che cercava. La collezione di chiavi, infilate in un anello dorato, che dava accesso agli arcani della casa, dalla cassaforte alla macchina da cucire. Risalì la scaletta col fiato grosso, aprì l'anta e, dopo aver scrutato le lettere dorate nell'oscurità, afferrò il re Lir. La concavità della costa era intrisa di polvere. Daniel ne soffiò via una gran nuvola, la osservò disperdersi e cadere, imbrattò un fazzoletto di sbaffi neri. Senza far rumore, si richiuse alle spalle anta, cassetto, scrivania e studio e andò di sopra. Inserì uno scellino nel gasometro e accese la stufa, una vecchia sunbeam che ruggiva e sputacchiava con minacciosi scoppiettii. Due dei suoi elementi erano otturati. Scostò la tendina e si lavò in fretta fino alla vita, corrucciato. Ripiegò gli abiti neri, indossò il pigiama e un maglione informe e si infilò a letto. Sul comodino, sotto un paralume di nastri di plastica cremisi intrecciati, c'era una lampadina a basso voltaggio. L'effetto era sinistro e allucinatorio. Danny si ristrinse su un fianco, in modo che la luce rossa si diffondesse sulle pagine e, con un certo impaccio, cominciò a leggere Re Lir. Leggeva lentamente, attentamente, concentrandosi. Quella stanza non gli piaceva, ma non aveva mai provato a cambiarla o a mitigarne lo squallore. Non era un grande lettore. Era lento, era sempre stato lento. Era stato un ragazzino pallido e grasso, appesantito e oppresso dal suo peso. Poco prima della conversione, all'età di 15 anni, aveva letto che il grasso è un combustibile da bruciare in energia. Si era commosso. Quella frase aveva modificato la percezione che il Daniel interiore aveva del Daniel esteriore. Per la prima volta aveva accettato la possibilità di un intimo legame tra i due Daniel. Adesso gli capitava di frequente di usare l'immagine del combustibile ironizzando su se stesso dal pulpito. Essere grassi implicava, per certi aspetti, una condotta da grassi. La condotta da grassi era stata una questione di atteggiamento per il bambino e lo era per l'adulto. Quando suo padre era vivo, sentiva che sotto il grasso c'era energia. Suo padre era un macchinista. Daniel era cresciuto a Sheffield, in una piccola schiera di case annerite dal fumo, con cortili cintati e latrine col tetto d'ardesia. I macchinisti erano rispettati, un gradino al di sopra degli altri operai del quartiere. Le tende degli Horton erano più inamidate, la soglia della porta più bianca, l'ottone più scintillante. Ted Horton era enorme e rumoroso. Quando entrava in casa portava con sé la massa, il calore e la propulsione della sua locomotrice. Irritava quella schizzinosa di sua moglie, sbattendo contro i mobili, urtando le suppellettili, mangiando rumorosamente. Fuori di casa la maldestra vitalità di Ted si trasformava in una forza più pacata, una locomotrice che ha lasciato la stazione e muta il suo primo sbuffare soffocato nello scorrere vorace e placido di un lungo percorso. Gli piaceva portare Daniel alla rimessa, sui binari, in cabina. Controllava i compiti di Daniel, lo mitragliava all'improvviso con una scarica di parole da sillabare o un lungo problema aritmetico da risolvere a mente. Gli promise un album di francobolli e una gita al mare se avesse superato gli esami con ottimo. Daniel li superò senza infamia e senza lode. Ricevette comunque l'album di francobolli. La gita al mare non si fece mai. Una settimana dopo, nei pressi di uno scambio, Ted fu investito dai vagoni impazziti di un convoglio merci che trasportava minerale grezzo. Seguì una settimana durante la quale giacque in ospedale come un monumento fracassato. Poi morì. Non portarono Daniel a vederlo. Prima gli dissero che avrebbe potuto andare a trovarlo quando suo padre avesse ripreso conoscenza. Poi gli dissero che era tutto finito. Stranamente ce l'aveva con suo padre, adesso lo capiva, per essersene andato in quel modo assurdo e delusivo, con una promessa che non avrebbe mai mantenuto, ed era la prima volta. Non fu portato al funerale, venne lasciato a giocare con un altro ragazzo nel quartiere. Sua madre non gli parlò mai di quanto era successo. Qualche tempo dopo, Daniel prese l'abitudine di dire alla gente che non riusciva a ricordarsi di quando era morto suo padre. Si trattava di una deliberata semiverità. Chiudeva il faccione, si comportava a suo avviso normalmente, sopravviveva a modo suo. Conservava l'album di francobolli, pagine vuote di quadrati minuscoli, buste traslucide e intatte di linguelle. Non lo aveva buttato né riaperto. Daniel aveva creduto che lui e sua madre si sarebbero avvicinati. Con una certa dose di sentimentalismo, aveva immaginato di diventare l'ometto di casa, l'orfano che dà e riceve conforto. In realtà la madre si inasprì, in fretta e sgradevolmente. Passava gran parte del suo tempo al cancello sul retro, lamentandosi della pensione insufficiente, delle difficoltà di far quadrare il bilancio, dell'artrite. Parlava di Daniel come di un fardello. La signora Horton era stata una donna minuta, vivace e fragile. Adesso era imbottita di grasso superfluo su spalle, dorso, fianchi e guance, così che naso e mento, dita delicate e piccoli occhi, parevano reminiscenze appena abbozzate di sembianze più ridotte. Il suo unico piacere nella vita era stato flirtare. Con la vedovanza, la signora Horton sostituì al piacere del flirt quello del pettegolezzo. Se un tempo, in compagnia di altre ragazze, aveva deriso le difficoltà di spasimanti e rivali, adesso contribuiva all'eterna trama di supposizioni, critiche e pettegolezzi sulle imprese dei vicini. Passò dalle scarpe alle pantofole e con Daniel dai manicaretti al cibo in scatola. Daniel era solo, talmente solo che non poteva pensarci. A scuola divenne taciturno e mediocre. Nei compiti ce la metteva tutta, ma non riusciva a cogliere il senso di quello che faceva, la struttura sottostante alla geometria o alla grammatica. Dal momento che superava tutti gli esami con la semplice sufficienza, nessuno si chiese mai se sapesse quello che faceva. Non se lo chiedeva neppure lui. Se fosse stato più bravo, qualche insegnante avrebbe cercato di stimolarlo. Se fosse stato meno bravo, lo si sarebbe aiutato. Ma non era né l'uno né l'altro, e quindi tirò avanti. Era bravo quanto basta a passare inosservato. A 15 anni, ingabbiato in pieghe e rotoli di ciccia, venne spedito con una combriccola di studenti delegati a una settimana di formazione civica a Sheffield, un ininterrotto susseguirsi di conferenze e spettacoli. Tra gli oratori, per nessuna ragione particolare, c'era il pastore di una diocesi anglicana della zona. Era una comunità dell'alta chiesa che aderiva rigidamente al voto di povertà, castità e obbedienza. Avevano sperimentato la figura del prete operaio, mandando uomini a lavorare in fabbrica e a vivere in comunità alloggio con gruppi di ex detenuti. L'intervento del pastore si intitolava «Prospettive per gli ambiziosi». Parlò in ritardo, in un pomeriggio plumbeo, a un vasto uditorio troppo a lungo recluso, intorpidito e irritabile, nella cavernosa oscurità della sala delle colonne del municipio di Sheffield. Si stagliò contro luce come se sbucasse da sottoterra e rimase in piedi, scarno e slanciato come una colonna nelle vesti nere, tra le solenni e inanimate sfingi fasciste di bronzo ai due lati della pedana. Il suo discorso fu e rimase l'unica esperienza di passione collettiva condivisa nella vita di Daniel. Non furono le parole, malgrado la sua straordinaria eloquenza, ad avvolgerli in un incantesimo mesmerico di buon senso e pura razionalità. In lui c'era vita, senza dubbio, e non soltanto Daniel, ma tutti si animarono, protendendosi verso la conoscenza offerta da quelle dita tese e aperte. Lui guardò fuori, oltre le loro teste, i pallidi globi elettrici appesi alle catene di bronzo nel crepuscolo, e tutti, come un'unica creatura, lo imitarono, catturati dal suo sguardo luminoso. Se fosse sceso dalla pedana, lo avrebbero raggiunto e implorato di imporre le mani su di loro. La retorica non era certo il suo forte, e Daniel presto dimenticò molte di quelle frasi, mentre quelle che ricordava persero bellezza e slancio, arrivando a sembrargli perfino banali o bizzarre. Ma gli rimase per sempre impresso nella memoria, dopo che l'uomo ebbe concluso con un ultimo gesto di minaccia, incitazione o abbraccio, lasciando infine cadere le braccia loquaci e trattenendo la sua energia, gli rimase impresso il vortice di passione nella sala, la sensazione che si potesse dire l'indicibile, l'energia liberata. Il giorno seguente andò dal vicario della parrocchia e dal preside della scuola per informarsi di se rivestirsi necessari a entrare nella chiesa. Fu addirittura contento di scoprire che doveva restare a scuola un altro anno e che avrebbe dovuto imparare il latino. Ostacoli e difficoltà lo facevano sentire più forte. Aveva uno scopo che gli faceva brillare gli occhi. La facoltà di teologia gli insegnò molto di quanto aveva intravisto in quello strano pomeriggio. Era rimasto tenacemente fedele a ciò che aveva pensato ci si aspettasse da lui. Ma con il procedere della sua formazione comprese molte altre cose. Comprese che c'era bisogno di una persona pratica, una persona completamente dedita alle soluzioni pratiche. Usava questa parola in un senso forse molto personale. Quando si rese conto con chiarezza di non essere né un pensatore né uno studioso, di non essere interessato né alla propria vocazione né a quella altrui e neppure alle prime eresie e forme liturgiche, ripeté a se stesso che c'era bisogno di una persona votata a una vita pratica. Essere pratico significava vivere a diretto contatto con la sofferenza, la povertà, l'orrore. Ricondurre in luoghi dove fossero misurati con criteri umani coloro che le forze del male avevano privato di umane proporzioni del corpo, della ragione, dei rapporti sociali. Doveva prepararsi seriamente se voleva essere utilizzato in quell'ambito. Il resto erano semplici impedimenti e li avrebbe affrontati. Nella pratica sapeva districarsi quanto bastava nascondere la sua mancanza di interesse per le riunioni di preghiera o gli esami di coscienza collettivi. Daniel era convinto, ma evitava di dirlo, che si dovesse badare più al lavoro da svolgere che allo stato della sua anima e di quella dei suoi compagni di corso. Era allo stesso tempo innocente e sovversivo, ma la sua aria pingue e rispettosa ingannava i suoi superiori, che lo giudicavano volenteroso ma lento. La diocesi di Blessford fu un'occasione come un'altra per l'apprendistato di un uomo pratico. Daniel non cercava una causa, bensì un lavoro, perciò nessuno si avvide che era un fanatico. Se il signor Allenby, il pastore, l'aveva intuito, Daniel per parte sua non se ne rendeva conto, preso com'era a scoprire quale fosse il suo lavoro e il modo migliore per farlo. Quella sera si girò nel suo lettino duro e si dedicò al Re Lear. A quanto pareva era importante averlo letto, chissà perché. Era stato indotto a farlo da una sorta di collera e da un più oscuro desiderio di confrontarsi con i Potter, in particolare con Stefani. Leggendo, non sapeva esattamente perché leggesse. E così lesse per la storia, per vedere cosa succedeva a Edgar e Cordelia, in cui vide l'eroe e l'eroina, ammirando, senza alcun timore reverenziale, la bravura di Shakespeare nel creare un vecchio così reale, così esasperante, così ferito, così inevitabilmente rovinato e alla deriva. Il Re Lear era vero. Annotò alcune frasi per i suoi sermoni. La vecchiaia è inutile. Che inutili trucchi, torna dunque da mia sorella. Era più semplice da leggere, più semplice e possente dei suoi ricordi dello Shakespeare studiato a scuola. Gli sarebbe piaciuto raggiungere una simile semplicità. Nei suoi sermoni c'era sempre un che di sgradevolmente pretesco che creava una distanza di cui si dispiaceva senza sapere come affrontare il problema. Finito di leggere, capì di aver imparato qualcosa sulla sofferenza. Il suo corpo era teso e rigido, Si sentiva commosso e inquieto. Aveva a che vedere con la lettura e soprattutto con Stephanie Potter. Ricordò il modo in cui aveva smettuto il monopolio alla morte della gatta, così scrupolosa e pratica, con le mani macchiate di sangue, il modo in cui aveva strofinato e avvolto i gattini, stringendo delicatamente a sé la bambina in lacrime per confortarla. Un'anziana donna, terribilmente sentimentale, quella settimana, parlandogli del nuovo nato della figlia, aveva detto: «Oh, potrei stritolarlo, sì, potrei stritolarlo!» Riconobbe dentro di sé il desiderio di stritolare Stephanie. Mentre Bill Potter gli faceva la predica, lui si era immaginato con assoluta chiarezza di chinarsi in avanti e afferrare la caviglia tornita e indolente di Stephanie e stringere, stringere fino a scuotere l'osso. Prospero. Nel mese di marzo, un marzo cupo e burrascoso, Matthew Crowe diede avvio a un vero e proprio tour de force per informare ed esortare la comunità locale. Il festival sarebbe stato il suo opus magnum. Aveva intenzione di riunire musica e fiori, stornelli di mezzanotte e sarabande, danze ebre e solenni, la ricostruzione di un corteo reale con tanto di torneo cavalleresco e fiera delle oche e naturalmente la messa in scena della Strea di Alexander. C'era, nell'eloquenza di Crowe, qualcosa di assoluto, come in Lord Beaverbrook, che durante la guerra invitava le donne a buttare alluminio, vasche di zinco e ringhiere di ferro sui cumuli di rottami da trasformare in munizioni, o in Savonarola, che esortava le gentildonne di Firenze a pentirsi, a salvarsi l'anima e a deporre parrucche e gioielli sul suo rogo. Crowe spronava le associazioni dello Yorkshire a imprese prodigiose, per le quali occorreva la stessa tenace vitalità, ormai velata di nostalgia, che un tempo avevano messo nel confezionare sciarpe per l'esercito con gli avanzi di lana o nello scavare trincee per la vittoria. Anche lui esigeva abiti e gioielli, qualunque ritaglio di strass o di tessuto sfavillante e lucido, messo in comune, rifatto e rinnovato per ornare regine e dame raffinate. Esigeva talento. Voleva che ognuno, in quella primavera, si desse da fare per ridare al paesaggio l'antica dolcezza e armonia, per restituire alla terra dorata l'ornamento dei fiori antichi, quelli soavemente profumati, lavanda, viola ciocca, artemisia, pepe garofanato e garofanini screziati. Conquistò anche gli uomini, braccando la milizia territoriale, i giovani agricoltori, i manovali, i fornai, i boy scout, chiedendo cavalli, banchetti per vendere dolci, carri, palanchini, tendoni. Incoraggiava il restauro delle chiese, la doratura di schiere di pargoli elisabettiani defunti nella cattedrale, l'acquisto di teche di vetro antiproiettile per esporre calici antichi fino a quel momento tenuti nascosti. Si recava nelle piccole città costiere dove, nei mesi terribili di gennaio e febbraio, furiose tempeste d'acqua e di vento avevano costretto gli abitanti a lasciare i cottage e le ville. Tastava con benevolenza i tappeti inzuppati e la tappezzeria marcita e offriva contante per rimetterli a nuovo. E così i colori del Festival della Gran Bretagna spuntarono allora incongruamente tra l'antica Ardesia, tra il grigio e il bianco. I muri dei cottage, le porte dei garage, gli steccati simili a quelli dei ranch americani spiccavano chiari contro blu cielo, giallo primula, talora cupo eliotropo. «Fra qualche mese», disse Crowe ad Alexander, «nei sobborghi di Calverley e Blessford, ogni casa sarà finto Tudor, circondata da siepi odorose finto Tudor, con aiuole traboccanti di rose finto Tudor e tutti i relativi orpelli». Disse ad Alexander che ci voleva un piano generale. «Per mettere insieme tanto tempo e tanto passo, faccio appello in eguale misura nobili ideali e passioni elementari. La cultura vera, cucitura e colla, zucchero d'orzo e zucchero filato, parole vecchie e parole nuove, tutto amabilmente fuso. e un po' di volgare competizione, mio caro ragazzo. La migliore festa elisabettiana, il migliore giardino elisabettiano antico, il migliore giardino elisabettiano moderno, il migliore corteo di villaggio. E teniamo audizioni volutamente meticolose e interminabili per tutti gli eventi musicali e balletti e soprattutto per il tuo dramma. Come i più esigenti magnati del cinema, setacceremo il paese in cerca di talenti sconosciuti. Passeremo in rassegna le liceali nelle loro uniformi. Ai ragazzini faremo dire che metteranno ghirlande intorno al mondo e ai più grandi faremo interpretare Calibano. Nessuno resterà fuori. Comitati organizzativi del festival sorsero nelle città e nei paesi. Alexander impiegò gran parte del suo fascino sdegnoso a persuadere Bill Potter ad accettare la presidenza del comitato di Blessford, che annoverava anche Felicity Wells del liceo e il pastore signor Allenby. Il disprezzo di Bill per queste due persone, unito al rabbioso timore che si controllò di suoi austeri gruppi culturali a colpi di birra e torte farcite, lo faceva tentennare. Alla fine acconsentì, con un'intenzione vagamente trotskista, di sovvertire la frivolezza di Crow, per di più con il suo denaro e dall'interno della sua struttura. I comitati organizzativi fecero visita a scuole e università, strappando consensi incondizionati e tangibili. Fu così che Alexander si ritrovò in coda sul podio del liceo femminile di Blessford Hyde, dietro al pastore, in un'assurda fila che comprendeva un Crow dal sorriso smagliante, una preside molto graziosa e l'angustiata signorina Wells, troppo consapevole della presenza di Bill al suo fianco, tutto teso a cogliere il minimo indizio di pusillanimità morale. Felicity Wells era iscritta a parlare. Aveva qualche problema con una gamba della sua sedia e un vaso di ortensie. Commise l'errore di far precedere la sua descrizione del nuovo rinascimento da una lunga e complessa analisi del vecchio, in particolare di come aveva danneggiato Calverley. Aveva mani minuscole che sollevava spesso in un gesto di entusiasmo stupefatto, levando i palmi e portandoseli ai lati delle orecchie. Quel gesto la faceva assomigliare un po' a un giocattolo vittoriano, un cane o una scimmia meccanica. Si sentiva che Bill, al suo fianco, contraeva i muscoli, quelli della faccia in un ghigno ironico e quelli del corpo in probabile anticipazione di un discorso fuori programma. Di fronte a loro, sedute a gambe incrociate sul pavimento, c'erano numerose file di ragazzine, ragazzette, ragazzone. Sopra le cui teste, al di là della balaustra della balconata, le studentesse del penultimo e ultimo anno scrutavano con occhio clinico le persone riunite sul podio, accavallando instancabilmente varie file di gambe in calzettoni di filo di Scozia e incrociando le braccia, ora impacciate, ora spavalde, su piccoli seni appuntiti o su seni generosi e maturi, i cui globi tendevano le pieghe piatte della camicetta da ginnastica. Così ammassate, Alexander le trovava spaventose. Entrando nella sala, aveva sentito calare un sipario di sss e frusci sul cicaleccio stridulo e il cinguettio di quelle creature di sesso femminile. Quei rumori lo allarmavano, mentre trovava rassicurante la risacca di tonfie risate dei maschi. Anche lui accavallava e riaccavallava le gambe, consapevole delle perverse traiettorie di quei giovani sguardi femminili, fissi sulle sue caviglie scoperte e sulle sue ginocchia pedate dal volume. Quando si accorse dello sguardo di Frederica, dritta come un fuso all'ombra di un pilastro della galleria, arrossì violentemente. Alle sue spalle, Stephanie, le mani educatamente posate in grembo, cercava di tenere a bada l'ansia per l'avventata Felicity e di sottrarsi al turbine di furiosa emotività che aleggiava intorno al padre e alla sorella, e pensava ad Alexander, sforzandosi di guardare la sala con i suoi occhi. Lì dentro si era svolta una grossa fetta della sua storia. Da bambine si sedevano davanti alla Venere, i cui occhi ciechi e vuoti si perdevano lontano, scavalcandole. Giunte alla pubertà, più o meno, si sedevano vicino alla statua, più o meno, di fianco e ai suoi piedi, contemplandone dal basso la vita robusta e gli enormi fianchi drappeggiati e i monconi delle braccia tagliate. All'ultimo anno di scuola la si vedeva guardare lontano, da lontano, imponente sulle natiche massicce. L'incarnato aveva assunto il colore di un formaggio stagionato e lustro, il colore del cheddar, uno spesso strato di smalto che da molti anni non aveva più alcuna relazione con il marmo che imitava e che a ben guardare sembrava quello di un cadavere, opaco e gonfio. Dagli 11 ai 18 anni le sue vaghe sensazioni si erano concentrate ogni mattina su quel colosso cieco immobile. Dalla posizione in cui si trovava adesso, riusciva finalmente a guardarla negli occhi, ma continuava a sembrarle enorme. Anna Bonaiuto ha letto La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it